Focus Economia. Buonasera gentili ascoltatori da Simone Spezia, sono le 17:07 e benvenuti a una nuova puntata di Focus Economia. È una giornata, quella di oggi, dal punto di vista economico, nella quale inevitabilmente si tirano le somme, perché di fatto è la giornata che chiude l'anno, se considerate che domani, per esempio, Piazza Affari è chiusa. Una giornata sul fronte dei mercati che ha visto un lieve ritracciamento, appunto, da parte delle borse, dopo però 6 giornate comunque di crescita, e quindi è anche il momento per i gestori di chiudere qualcosa, insomma di chiudere qualche posizione, quindi si è registrato qualche calo. Di questo naturalmente parleremo più avanti, come parleremo di qualche scadenza, di qualche cambiamento che arriva all'inizio dell'anno, per esempio quello che riguarda i coefficienti delle pensioni, e come avete sentito dal giornale radio, naturalmente parleremo dei dati che sono stati forniti sull'evasione fiscale da parte di Equitalia, dei dati importanti perché indicano la vera e propria riscossione, ossia quanto si è effettivamente incassato. Al di là di quanto ha scoperto la Guardia di Finanza, al di là di quanto ha scoperto l'Agenzia delle Entrate, bene, questi sono i soldi che sono veramente entrati nelle casse dello Stato. Iniziamo dalle notizie in breve di questa giornata. Iniziamo oggi dal bilancio di Piazza Affari. Di questo tema abbiamo parlato questa mattina in Salvadanaio dalle 12 alle 13, approfondiremo domani in una puntata di Focus Economia, nella puntata di Focus Economia di domani. Vi possiamo fornire nel frattempo qualche dato che è stato diffuso dalla Borsa Italiana. Allora, Piazza Affari ha recuperato il 21% dalla fine del 2008, l'indice FTSE Italia storico è risalito appunto del 21% e del 74% rispetto ai minimi segnati a marzo, tutto sommato non male. La capitalizzazione complessiva delle società nazionali quotate è di 459 miliardi di euro, pari al 30,4% del PIL. E sempre dai dati diffusi da Borsa Italiana emerge che nel 2009 sono stati raccolti 18,7 miliardi di euro da parte di società già quotate o di nuova ammissione a Piazza Affari. Si tratta di 28 operazioni di aumento di capitale con una raccolta da 18,6 miliardi di euro. È il valore più elevato dal 2000. La parte leone la fa Enel con una ricapitalizzazione, ne abbiamo parlato anche di questo, da 8 miliardi. Seconda di sempre per dimensione, 7 le società che si sono quotate sui mercati di borsa. Nel complesso ci sono 322 quotate, 8 nuovi ingressi e 12 cosiddetti delisting, ossia uscite dal mercato, in calo rispetto alle 18 del 2008 e alle 16 del 2007. Da segnalare anche l'andamento di oggi del rendimento dei titoli di Stato per quanto riguarda i BTP assegnati oggi in asta dal Tesoro, in rialzo, mentre per quanto riguarda i CCT si è toccato un nuovo minimo storico all'1%. Il buono del Tesoro triennale ha registrato un tasso del 2,19%. In rialzo anche il rendimento del BTP a 10 anni, che ha visto la settima tranche collocata con un rendimento lordo del 4,07%, scende appunto, dicevamo, il rendimento del CCT piazzato con un tasso lordo dell'1%, che è appunto il nuovo minimo storico. Si è parlato a lungo in questi mesi dell'andamento delle compagnie aeree, in realtà sono stati tutti anni difficili a partire dalle stragi dell'11 settembre del 2001 e ancora naturalmente le cose faticano ad andare bene per una serie di motivi, un mix di fattori tra cui, tanto per dirne uno, il prezzo del petrolio, il costo del greggio e quindi dei carburanti per gli aerei. Ebbene, adesso a rischio c'è la Japan Airlines, che è la compagnia di bandiera giapponese, crollata del 24% questa mattina la borsa di Tokyo. Ieri il calo era stato del 10%, ha segnato il minimo più basso nella sua storia in un mercato sempre più convinto che la compagnia aerea di bandiera vada verso il crack. Il livello raggiunto, che è 67 yen per azione, non è mai stato raggiunto da quando la compagnia è sbarcata in borsa nel 2002. Il governo del Giappone si è riunito oggi proprio per discutere il futuro di Japan Airlines e ha deciso di mettere a disposizione della compagnia di bandiera un nuovo prestito da 55 miliardi di yen, un prestito ponte, se si vuole. Nel frattempo sono stati diffusi i dati dalla IATA, l'Associazione Mondiale delle Compagnie Aeree, che registra a novembre dati di traffico in aumento, un segnale è positivo, anche se il direttore generale e amministratore delegato Giovanni Bisignani da Ginevra della IATA dice che c'è ancora molto terreno da recuperare. Di questo parleremo dopo le 18, è un tema che approfondiremo. Petrolio, si diceva, tra le cause del cattivo andamento delle compagnie aeree. Bene, diamo il dato di oggi. Ha aperto il rialzo il greggio al mercato di New York, ha sfiorato i 79 dollari al barile nei primi scambi, aumentando di 11 centesimi a 78,98 dollari. Poi ha ritracciato leggermente, ma al di là dei carburanti delle compagnie aeree ci sono i nostri carburanti, quelli che dobbiamo acquistare per le nostre auto, soprattutto in questi giorni che si viaggia. Dopo il forte balzo in avanti deciso ieri da Agip, oggi tutte le altre compagnie si sono adeguate, posizionandosi intorno a 1,325 euro al litro sulla benzina e a 1,169 euro al litro sul gasolio. E la tendenza all'aumento, almeno sul mercato dei prodotti raffinati del Mediterraneo, non si è ancora esaurita. Le cattive notizie non sono finite per chi è in viaggio in questi giorni, per questo lungo fine settimana di Capodanno. Dal prossimo 1 gennaio 2010 scattano gli adeguamenti delle tariffe di pedaggio autostradale delle società concessionarie, aumenti proposti dall'ANAS sulla base delle convenzioni stipulate appunto con le società. Gli aumenti sono del 2,40% per Autostrade per l'Italia, ma si segnalano aumenti ben più consistenti. Per esempio, Autostrada Brescia-Padova più 6,56%, un po' meno il Brennero più 1,60%, e gli altri si posizionano più o meno tutti intorno ai 2 punti percentuali o al punto e mezzo percentuale. Le tariffe di pedaggio invece delle autovie venete sono diminuite dell'1% circa. E visto che siamo in tema di cattive notizie per i consumatori, vi ricordiamo anche quella che è stata diffusa ieri, e visto che si parla di prezzi dell'energia, ossia che le tariffe del gas a partire da gennaio aumenteranno del 2,8%, mentre caleranno quelle dell'energia elettrica del 2,2%. In realtà il primo aumento dopo un anno di ribassi. La spesa annua sarà di 26 euro in più, questo almeno quello che viene calcolato dall'autorità per l'energia elettrica e il gas, che ha diffuso i dati. Abbiamo parlato parecchio nella puntata di ieri di povertà, con i dati che sono stati diffusi dall'Istat, che segnalano un numero consistente di famiglie in difficoltà anche ad affrontare spese impreviste. Oggi sono stati diffusi nuovi dati, questa volta dall'ufficio studi della CGIL, il rapporto IRES e CGIL, che sarà presentato entro gennaio. Secondo questo rapporto, una famiglia su 10, ossia il 10% delle famiglie, detiene 1,5 milioni l'anno, mentre la metà delle famiglie solo 68.000 euro. Quello che segnala in sostanza la CGIL è che c'è una vera e propria crescita del divario dei redditi, un argomento che abbiamo affrontato anche parecchio anche all'interno di Focus Economia, che sembra essere confermato appunto dal rapporto della CGIL. Sono stati diffusi altri dati, e in questo caso dall'Istat, riguardano l'occupazione e i prezzi della produzione. L'occupazione delle grandi imprese a ottobre è diminuita dell'1,9% rispetto allo stesso mese del 2008 ed è rimasta invariata rispetto a settembre 2009. Questo il dato per quanto riguarda appunto l'occupazione nelle grandi imprese. Per quanto riguarda i prezzi della produzione, ripartono invece. A novembre sono aumentati dello 0,3% su base mensile, mentre sono diminuiti del 3,1% rispetto a novembre. Da segnalare che nei primi 11 mesi dell'anno si è registrato un calo del 4,9% nel complesso dei prezzi dei prodotti industriali, e variazioni positive ci sono state per i beni di consumo, per quelli intermedi e soprattutto per l'energia. Abbiamo parlato di occupazione, abbiamo parlato di energia e c'è una notizia che riguarda entrambi gli ambiti, ossia Alcoa, la multinazionale dell'alluminio, che ha ribadito di essere pronta a chiudere gli stabilimenti in Italia dal 7 gennaio prossimo, se non si arriverà alla definizione di una tariffa energetica competitiva per restare sul mercato. È stato l'amministratore delegato di Alcoa Italia, Giuseppe Toia, a comunicarlo ai sindacati in un incontro ad Iglesias. A rischio ci sono oltre 2.000 operatori, escluso l'indotto, che lavorano negli impianti di Porto Vesme in Sardegna e Fusina in Veneto. E veniamo al primo tema di giornata, ossia la lotta all'evasione. Allora, la lotta all'evasione, la notizia l'avete sentita poco fa anche nel nostro giornale radio. Vi ricordo intanto il nostro numero di sms per intervenire, 349-238-6666. La lotta all'evasione ha permesso di far rientrare nelle casse dello Stato 7 miliardi e mezzo di euro quest'anno. Per farsi un'idea, si tratta di poco meno del valore dell'impatto dell'intera manovra economica per il 2010, che vale circa 9 miliardi. Che dati sono questi? Sono i dati che sono stati diffusi da Equitalia, che è la società di Stato incaricata della riscossione, e quindi, a differenza dei dati, per esempio, diffusi dalla Guardia di Finanza o per esempio diffusi dall'Agenzia delle Entrate, sono i soldi effettivamente riscossi, ossia quelli che sono effettivamente entrati nelle casse dello Stato. Buonasera a Marco Cuccagna, direttore generale di Equitalia. Buonasera. Allora, il dato è piuttosto positivo, insomma, un più 7,5% per 7 miliardi e mezzo di euro. Il dato è positivo sotto molteplici aspetti, direi. Contestualizzando il numero, direi che in un periodo dove abbiamo avuto per tutto il 2009 un indicatore di recessione rappresentato da un PIL con segno negativo, dire che si incrementa del 7,5% sul 2008 e del 12% sul 2007 significa dire qualcosa che si è fatto per far tenere le entrate anche in un periodo di depressione. C'è anche un altro dato, rispetto al periodo fino al quale questa riscossione era data in mano a società private. Lo ricordo, alla fine del 2006 siamo diventati una società pubblica, il pubblico ha ripreso in mano il processo di riscossione. Rispetto ai dati fino al 2005 abbiamo ad oggi un numero che moltiplica per 3 la riscossione media fino ad allora conseguita, che era, lo ricordo, dell'ordine di poco meno di 2 miliardi l'anno medi. La terza osservazione che mi sento di fare è che in un periodo di grande difficoltà economica i contribuenti che hanno deciso di continuare ad aderire all'impegno sociale stipulato con lo Stato attraverso il pagamento delle tasse è stato un fenomeno significativo, ecco, lo ripeto in questo senso, a tutto vantaggio dei contribuenti che invece le tasse le pagano senza bisogno di chiedere aiuto, mi passi il termine, ad Equitalia, ecco, questo è un numero importante per noi. Allora Cuccagna, c'è un dato molto importante tra questi che ci dice che nel 2009 sono state concesse 445.000 rateazioni, un più 155% sul 2008. In totale le dilazioni di pagamento hanno raggiunto quota appunto 620.000 per un importo di oltre 10 miliardi di euro. È un dato che ci interessa particolarmente perché può essere un segnale o da una parte che avete insistito voi sulle rateizzazioni, ossia meglio incassare qualcosa, iniziare ad incassarlo subito piuttosto che andare avanti con un contenzioso che può durare anni e magari finire per non incassare niente o incassare tra parecchio, e dall'altra parte può essere anche un indicatore della crisi abbastanza forte, insomma imprese, famiglie o persone singole in difficoltà che decidono di rateizzare perché oggettivamente a ripagare immediatamente tutto quello che hanno evaso non ci riescono. Qual è il suo giudizio? Il mio giudizio è ancora una volta riferito a tanti fattori. Intanto una sensibilità della normativa che ha consentito ad Equitalia di prendere in mano il processo di valutazione delle momentanee difficoltà finanziarie nelle quali si trovi un debitore di questo tipo, che quindi è una risposta in termini di flessibilità, lo ricordo, in un momento di crisi economica globale. Il numero consente anche di affermare questo, come ha detto lei giustamente, è meglio incassare prima, ma sostanzialmente fissare un impegno, anche immediato e dilazionato, ma un impegno del 100% della cifra iscritta come debito che il contribuente ha in quel momento, e quindi significa che le rateizzazioni che valgono oggi come portafoglio complessivamente 10 miliardi di euro sono rateizzazioni conseguite con un impegno del contribuente a valere del quale sul quale appunto il contribuente si impegna con un certo numero di rate a restituire in forma dilazionata l'intera quota di debito. Quindi vale anche come certezza di acquisizione del credito da parte dell'ente che ci ha affidato questo ingrato compito, ma anche di sensibilità della comunità pubblica ad intercettare momenti di difficoltà. Le dico, aprendo un attimo il dato, se mi è consentito, no? Che stiamo parlando per il numero di rateizzazioni concesse di una media di 16.000 euro su scala nazionale per rateizzazione concessa. Le devo anche dire, aprendo ulteriormente il numero, che la sensazione è che le rateizzazioni ovviamente siano date su numeri più bassi di importo di debito, che vanno al di sotto della media, stiamo parlando di 5 a 10 mila euro, quindi significa debiti piuttosto bassi, ma richieste di rate per numero medio di 60, significa dire che un gran numero di contribuenti, mi lasci dire, forse appartenenti alle fasce più deboli, più esposte, intendo dire, alla congiuntura economica sfavorevole, hanno usufruito di questo istituto. E noi, in quanto società pubblica che cerca di recuperare le entrate, ma cerca di farlo cercando di minimizzare sempre il disagio che possiamo provocare anche ad un debitore, è un dato che non dico che ci riempia di gioia, ma insomma conferma le intenzioni di una società pubblica quale siamo di intervenire nel recupero delle entrate, ma di farlo con ragionevolezza e flessibilità. Questo, Cuccagna, non crea dei problemi di budget, diciamo così, a voi e conseguentemente allo Stato, perché nel momento nel quale si rateizza in sostanza non si incassa subito. Noi siamo abituati a fare i conti, come si diceva, con i dati che ci fornisce la Guardia di Finanza, piuttosto che l'Agenzia delle Entrate, piuttosto che il Ministero, che sono sempre dati o quasi sempre dati sull'evasione scoperta e non sui soldi effettivamente incassati. Voi fate i conti sui soldi effettivamente incassati e questi soldi però poi vengono dilazionati. Dunque l'osservazione è un'osservazione utile per spiegare questo, che al contrario mi sento di dire che una manovra in termini di stabilizzazione del gettito prospettico consente di dare al budget una forma meno estemporanea dell'aspettativa di un incasso che potrebbe arrivare in un mese piuttosto che in un altro. Questo però si esclude il fatto che non siamo in questo momento in circostanze nelle quali la riscossione defletta. Quindi il suo ragionamento potrebbe avere una qualche forma di preoccupazione in noi se pensassimo che questo portasse ad un deflettere del gettito annuo. Quindi confermando che il gettito annuo, quindi degli incassi definitivi, quindi non quelli che abbiamo concesso in redazione negli anni successivi, continua a crescere, ci consente di dire che c'è in termini di budget invece un rafforzamento della prospettiva di recupero delle entrate anche negli anni futuri. Quindi questo va nel senso di una manovra che tende anche un po' ad equalizzare il livello crescente di trend, senza dare a questo trend curve troppo distanti dalla media, che potrebbero invece, come dire, dare grandi gioie in un anno ma farne seguire poi una grande delusione nell'anno successivo. E anche questo il modo per poter intercettare un fenomeno di tenuta del budget. Grazie dunque a Marco Cuccagna, direttore generale di Equitalia, per essere stato con noi. Buonasera. Grazie mille, arrivederci. Adesso cambiamo argomento e parliamo di pensioni. Non prima di aver risposto ad un ascoltatore che ci dice: buonasera, sono scandalizzato, un evasore che viene beccato può beneficiare di dilazioni in America, se ti in America invece se ti beccano ti rovinano, in Italia siamo sempre troppo stupidi e i furbi la fanno franca sempre, se uno viene beccato deve pagare subito tutto. Questo è quello che ci scrive Stefano. Sì, sarebbe meglio, però oggettivamente piuttosto che non incassare niente probabilmente è meglio incassare piano piano qualcosa, insomma. Poi le regole sul fronte dell'evasione fiscale variano a seconda del livello dell'evasione fiscale, della quantità di soldi che si evadono. Poi si sa che spesso le procedure sono farraginose, quindi qualche volta capita di trovarsi la necessità di pagare allo Stato qualcosina che magari non si doveva, è stato solo un errore nella dichiarazione e così via. Insomma, comunque, ecco, probabilmente è meglio già incassare qualcosina subito piuttosto che non incassare niente. Naturalmente siamo nel puro campo delle opinioni. Pensioni dunque. Dal prossimo gennaio scatta la revisione dei coefficienti di trasformazione, una dicitura tecnica ma che avrà effetti molto concreti sulle tasche di tutti. Sono i parametri di calcolo con cui viene stabilito l'ammontare dell'assegno della pensione. Sono stati previsti dalla legge Dini del 1995. I coefficienti diventano effettivamente operativi da dopodomani e d'ora in poi verranno rivisti ogni 3 anni, tenendo conto dell'aumento delle aspettative di vita e dell'andamento demografico. Per farla facile, più si allunga la vita media, più si abbassa l'assegno mensile, poiché verrà corrisposto per più tempo. Ovviamente ad essere penalizzati da questo sono soprattutto i giovani. Buonasera alla professoressa Elsa Fornero, docente di economia politica all'Università di Torino, esperta di previdenza, editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. E buonasera a Giuliano Cazzola, studioso di politiche sociali, editorialista, è deputato del Popolo della Libertà e, se non erro, vicepresidente della Commissione Lavoro. Mi sbaglio, Cazzola? Esatto. Buonasera anche a lei. Allora, partiamo con la professoressa Fornero. È corretto, professoressa, quello che abbiamo detto, ossia che i giovani ne soffriranno parecchio dell'introduzione dei coefficienti? Diciamo è parzialmente corretto. Io direi intanto che lei ha detto riguarderà tutti, e questo, c'è una cosa che bisogna dire con grande chiarezza, che questo cambiamento nei coefficienti, poi magari cercheremo di dire in maniera intuitiva che cosa sono, questo cambiamento non riguarda le pensioni in essere, cioè non riguarda i pensionati di oggi. Quindi va detto con molta chiarezza che quelli che sono già in pensione non avranno alcuna riduzione di pensione per effetto del cambiamento di questi numeri. Questa è la prima osservazione. La seconda osservazione: è vero che diciamo questa modifica riguarda in modo particolare le generazioni giovani. Perché? Perché queste sono le generazioni più toccate dalla riforma. Le loro pensioni saranno in futuro calcolate sulla base dei contributi versati, del tasso di crescita del PIL, quindi di un parametro che riguarda tutta l'economia, e dell'aspettativa di vita al pensionamento. I numeri che raccolgono questa aspettativa di vita sono i coefficienti. Se l'aspettativa di vita aumenta, il numero si riduce, però va detto si riduce a parità di pensionamento. E qui è il punto importante, che non è un taglio delle pensioni, ma è un messaggio che dice questo: siccome tu vivi più a lungo, se vuoi andare in pensione alla stessa età a cui andavano in pensione quelli prima di te, la generazione prima o 10 anni prima o quando vuoi, allora siccome tu prendi una pensione per più tempo, la pensione è un po' più bassa. Non è un taglio, è un modo corretto di calcolare le pensioni per non fare pagare sempre ad altri i benefici che si ricevono. Era molto attesa l'arrivo di questi coefficienti, insomma il compimento almeno in parte della cosiddetta riforma Dini. Cazzola, ci basta a tenere in equilibrio i conti? Ma guardi, innanzitutto vanno aggiunte 2 cose alle considerazioni che faceva molto, molto puntualmente la professoressa Fornero, che non si applicano quelli che vanno in pensione anche l'anno prossimo, negli anni prossimi col sistema retributivo, in quanto i coefficienti di trasformazione accedono solo al sistema contributivo e al sistema misto. L'altra cosa da dire è che, come diceva la professoressa, si tratta di un dato che riguarda la parità delle condizioni. Se uno lavora di più, si abbatte l'effetto coefficiente di trasformazione. E ricordo che dal 2015 ci sarà un aggancio automatico dell'età minima di pensionamento all'evoluzione dell'attesa di vita, che in qualche modo compenserà anche l'effetto dei coefficienti di trasformazione. Per quanto riguarda invece la sua domanda, c'è un problema che si discute poco, ma che esiste e prima o poi emergerà. La crisi ha inciso anche in una maniera netta, in una maniera visibile anche sulla spesa pensionistica. È molto banale, no? La spesa pensionistica al numeratore cresce, al denominatore c'è il PIL che è diminuito, e quindi noi avremo a partire dal 2010 un'incidenza della spesa pensionistica sul PIL pari al 15,5%, che è grosso modo quell'incidenza che ci aspettavamo nelle previsioni pre-crisi venire intorno al 2030-2035, e il rientro al di sotto del 14% nelle previsioni pre-crisi atteso per il 2045 slitterà al 2060. Sono dati ufficiali, questi sono dati che il governo ha indicato nel documento di politica economica e finanziaria, e quindi in sostanza noi avremo un anticipo del picco di spesa pensionistica sul PIL. E io credo che il giorno in cui il Paese si porrà il problema in qualche modo di rientrare nei parametri virtuosi di Maastricht, no, con un deficit di solito del 3%, in qualche modo qualche conto col sistema pensionistico dovrà farlo. Perché se ne sente parlare spesso, insomma, le pressioni periodicamente salgono e poi tornano indietro su questo tema. Professoressa Fornero, anche lei ritiene necessaria questa correzione? E ho un'altra domanda: molte aziende in quest'ultimo periodo, in quest'ultimo anno, in questi ultimi due anni di particolare difficoltà economiche, hanno proceduto ad una serie di prepensionamenti proprio per, come dire, ripulire i conti da alcuni costi del personale, per dirla proprio brutalmente. Tutto questo ha un impatto ulteriore, secondo lei, sulla spesa pensionistica? Sicuramente sì, per quanto attiene al primo aspetto, cioè la possibilità di nuove correzioni. Bisogna ricordare che le nostre riforme entrano in vigore in maniera molto lenta, e cosa succede? Che molte delle pensioni anche dei prossimi anni contengono ancora molti privilegi, quindi anche qui io penso che sia doveroso non spaventare le persone che hanno assegni pensionistici molto modesti, perché credo che sia improbabile, inverosimile che si possa arrivare a toccare queste pensioni. Se ci saranno nuovi interventi sulle pensioni retributive, a parte la possibilità di anticipare magari quell'aggancio dell'età di pensionamento all'aspettativa di vita di cui parlava prima l'onorevole Cazzola, quello che dovrebbe andare in vigore a partire dal 2015, a parte quindi qualche aumento ulteriore dell'età pensionabile, io credo che forse si dovrebbe magari fare un discorso su pensioni che contengono ancora molti privilegi. E noi, la riforma del 95 era stata fatta esattamente per mettere le persone sullo stesso piano, per abolire i privilegi e magari aiutare quelli in difficoltà. Questa abolizione dei privilegi procede con molta lentezza proprio perché le riforme sono applicate in maniera molto molto lenta. Quanto al secondo aspetto, quello che lei diceva è una vecchia abitudine della nostra politica economica, e cioè scaricare sul sistema pensionistico tutti i problemi, diciamo, strutturali o anche congiunturali dell'economia, per cui quando un'impresa soffre la prima cosa che fa è che prende la forza lavoro in età relativamente anziana e cerca di mandarla in pensione, e quindi trasferire l'onere di una forza lavoro che considera non più adeguata dal punto di vista produttivo, trasferire questo onere sulla collettività. E chiaro che questo fa pugni con l'esigenza di aumentare l'età pensionabile. Qui direi che il problema non è tanto nel sistema pensionistico quanto nella struttura dei salari. Noi abbiamo una struttura salariale che non segue la produttività dei lavoratori. Siccome la produttività dei lavoratori tende a decrescere con l'età, bisognerebbe che anche i salari scendessero un pochino. Questo vorrebbe dire che scendessero un pochino con l'età. E questo vorrebbe dire che le imprese non sono più invogliate, non appena hanno qualche difficoltà, a mandare fuori subito quelli che sono in prossimità dell'età pensionabile. Un'ultima domanda per l'onorevole Cazzola ed è sul tema delle condizioni politiche per andare nella direzione indicata dalla professoressa Fornero. Insomma, su questo naturalmente la condizione è difficile, insomma, interventi sociali, interventi su queste cose in un periodo di crisi sono molto complicati, rischiano di essere piuttosto impopolari, di creare anche delle tensioni che non molti vorrebbero, e però interventi di quel tipo probabilmente ci vogliono. Le condizioni politiche, Cazzola. Ma guardi, io credo che adesso per un certo arco di tempo, finché non saremo fuori dalla crisi, è opportuno accontentarsi delle cose che sono state fatte. Ricordava anche la professoressa Fornero che i provvedimenti di luglio, ancorché molto parziali, hanno comunque un contenuto di carattere strutturale per quanto riguarda le lavoratrici del pubblico impiego e anche per quanto riguarda l'aggancio automatico dell'età pensionabile all'attesa di vita. Io credo, però io sono abbastanza ottimista, credo che ci siano le condizioni anche per fare delle cose importanti in maniera unitaria. Per esempio io nel mio piccolo ho presentato diversi progetti di legge, due in particolare, uno in estate e uno a cui sto lavorando adesso, insieme a autorevoli esponenti dell'opposizione, nel primo caso il senatore Ichino, nel secondo caso il senatore Treu, con proposte abbastanza interessanti, abbastanza innovative per quanto riguarda anche il futuro delle nostre pensioni. Credo che lavorando in Parlamento, ecco, partendo dalle commissioni, si possono fare delle cose importanti, soprattutto se il confronto politico si svelenisce. Non è che si può parlare solo di istituzioni, di giustizia, credo che bisognerà anche mettere all'ordine del giorno dei grandi temi di carattere economico, a partire dagli ammortizzatori sociali e anche la questione delle pensioni, seppure in un tempo questo ultimo argomento un pochino più defilato. Ebbene, speriamo che questo clima che sembra essersi generato in politica in quest'ultimo periodo si estenda anche a questi temi. Grazie dunque alla professoressa Elsa Fornero, docente di economia politica all'Università di Torino, esperta di previdenza ed editorialista del Sole 24 Ore, e a Giuliano Cazzola, studioso di politiche sociali, editorialista, deputato del Popolo della Libertà e vicepresidente della Commissione Lavoro. Una breve pausa, ci troviamo subito dopo per parlare di borsa. Focus Economia. Le 17:41 minuti, 48 secondi. Ci sono un paio di sms che ci sono arrivati sulle pensioni, al 349-238-6666. Ci scrivete: buonasera, ma se vado in pensione con 40 anni vengo penalizzato lo stesso? In tutta teoria, da quello che ci hanno spiegato Elsa Fornero e Giuliano Cazzola, non si viene penalizzati in pratica, si viene penalizzati se si va in pensione. Riguarda non l'anzianità contributiva, cioè non quanti anni si è contribuito, ma banalmente l'età. Se si decide di andare in pensione alla stessa età, tra 20 anni, alla stessa età nella quale si va in pensione oggi, sì, si viene penalizzati. E poi ci scrivono l'ascoltatore: ci sono fiorfiori di professionalità che vengono forzatamente fatti uscire dalle aziende, altro che produttività più bassa. Ma dove vive? Si riferisce ad una frase della professoressa Fornero, la quale però non ha detto esattamente questo, ha detto che le aziende ritengono di liberarsi di determinati costi del lavoro, che tra l'altro sono a quell'età mediamente un po' più alti rispetto alle figure junior, procedendo col prepensionamento e motivandolo appunto con un'eventuale produttività più bassa. Del resto questo è un tema interessante che prima o poi andrà affrontato, cioè gli over 55 che escono dal mercato del lavoro. Pensate che La Francia ha varato una legge che entra in vigore all'inizio di gennaio, ne riferisce oggi il Sole 24 Ore, che costringe le aziende con più di 50 dipendenti a predisporre dei piani precisi per le persone over 55 nel caso le facessero uscire appunto dall'azienda. È il momento della borsa. Guido Maurino di Radio Core Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, un quadro di giornata, innanzitutto giornata complessivamente piuttosto piatta, il FTSE All Share ha ceduto lo 0,45%, il FTSE MIB lo 0,55%, in realtà veniamo da qualche giornata di rialzo, siamo in chiusura d'anno e quindi ce lo si poteva aspettare. Sì, sostanzialmente... oggi ci sono state un po' di prese di beneficio dopo 5 sedute positive, va ricordato comunque essendo una giornata praticamente prefestiva anche gli scambi erano ridotti al lumicino, una giornata dove non ci sono stati spunti particolari se non una certa debolezza generalizzata sia del comparto bancario sia di quello lusso abbigliamento con Geox appunto che è stato il titolo peggiore cedendo l'1,68%. Anche in questo caso però si tratta soprattutto di prese di beneficio visto che comunque nelle ultime sedute il titolo aveva guadagnato oltre il 10%. Il quadro europeo non è molto lontano da quello che ci siamo detti, CAC 40 a Parigi ha ceduto lo 0,62%, il DAX a Francoforte lo 0,90%, il FTSE 100 a Londra lo 0,84%, da segnalare che Francoforte ha chiuso a mezzogiorno. Guido, adesso c'è una breve pausa per la viabilità, ci ritroviamo subito dopo e andiamo sui singoli titoli. Focus Economia. Alle 17.46 minuti 38 secondi con Guido Maurino di Radio Core Il Sole 24 Ore, veniamo ai singoli titoli di Geox, abbiamo già detto, complessivamente mi sembrano, Guido, piuttosto deboli i bancari in giornata, no? Sì, una debolezza generalizzata non solo in Italia ma anche nel resto d'Europa, comunque Intesa San Paolo ha ceduto l'1,41%, forse va spiegata un attimino meglio la questione del Banco Popolare che ha ceduto l'1,13%, il Banco Popolare infatti aveva lanciato nelle scorse settimane un aumento di capitale su Italise, l'aumento di capitale avrebbe dovuto nelle intenzioni consentire al Banco Popolare stesso di arrivare alla soglia del 95% per poter procedere al delisting di Italise, la soglia non è stata raggiunta, oggi era il primo giorno in cui in borsa venivano fatte le aste per i diritti inoptati, era già chiaro fin dall'inizio che non sarebbe stata raggiunta la soglia del 95%, poco fa il Banco Popolare ha comunicato di aver acquistato quasi tutti i diritti inoptati e di aver raggiunto il 91,4% di Italise. Cosa succede a questo punto? Italise sostanzialmente non può essere delistata direttamente, ma il Banco Popolare potrà lanciare un'OPA residuale il cui prezzo sarà fissato da Consob. La notizia, diciamo che in questo momento, se penalizza da un lato il Banco Popolare, fa bene a Italise che oggi ha chiuso in rialzo del 4,75%. E dunque, Banco Popolare meno 1,13%, Intesa San Paolo meno 1,41%, Mediolanum meno 1,02%, meno 0,89% per Mediobanca, sempre tra i finanziari generali giù dello 0,90%, Unicredit dello 0,74%, titolo più scambiato dell'anno, se non sbaglio, secondo il report di questa mattina della borsa italiana in chiusura d'anno. Guido, vedo bene Exor più 1,42% oggi, Lottomatica più 1,23%, Atlantia più 0,77%. Si parla di tariffe autostradali, no? Si parla di tariffe autostradali perché oggi Atlantia ha comunicato che dal 1 gennaio 2010 scatteranno gli aumenti tariffari. La notizia ovviamente ha fatto bene al titolo che ha guadagnato lo 0,77% e sono andate bene anche le altre società concessionarie autostradali, in particolare Autostrada Torino Milano ha guadagnato l'1,98% e SIAS l'1,79%. C'è una notizia dei giorni scorsi che sta avendo un impatto buono sull'ottomatica, lo dicevamo, un guadagno dell'1,23%. Che cosa è successo? Sostanzialmente l'antitrust ha aperto un'istruttoria tempo fa sulle Poste Italiane. La chiusura di questa istruttoria non ha portato a sanzioni per Poste Italiane, ma l'antitrust ha, come dire, accolto le disponibilità che erano state manifestate dalle stesse Poste Italiane per aprire il settore per quello che riguarda i servizi di incasso e pagamento, e questo vuol dire sostanzialmente che i bollettini di pagamento potranno essere a breve pagati anche nelle tabaccherie gestite dall'Ottomatica e Sisal, e questa notizia ha fatto bene al titolo anche oggi, che ha guadagnato l'1,23%. Pirelli Real Estate, positiva anche qua. Sì, anche qui un rialzo che era stato più forte nel corso della seduta, mentre sul finale Pirelli Re ha chiuso a più 0,49%, oggi la società ha ceduto un altro 5% della sua SGR Immobiliare Intesa San Paolo per 10 milioni di euro, e insomma questa operazione era in qualche modo nell'aria, visto che si era sempre detto che doveva avvenire entro fine anno, ma il perfezionamento ha dato un attimino di sprint al titolo. Abbiamo parlato in apertura delle matricole di quest'anno in borsa, tra queste c'è House Building, che mette a segno una performance a dir poco notevole, Guido. Sì, House Building ha guadagnato il 30,32% dopo aver guadagnato il 67% ieri. Sostanzialmente il prezzo in due sedute è volato a 4,04 euro, più che raddoppiando quello dell'offerta iniziale, che era fissato a 1,85, e con un ulteriore paradosso che sostanzialmente House Building quota ormai più della controllata Uniland, che la controlla appunto con quasi il 90% delle quote. Quindi questo ci sembra il quadro di giornata. Nel frattempo abbiamo anche un quadro generale arrivato dalla Borsa Italiana, qualche notizia ve l'abbiamo già data, insomma House Building ieri più 67%, oggi ancora in crescita se si considera che questa crisi è partita in parte dal mercato immobiliare, fa un certo effetto, è partita dal mercato immobiliare americano ed è proprio negli Stati Uniti che andiamo adesso. Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore da New York, buonasera. Buonasera. Iniziamo, abbiamo parlato di borsa fino adesso, iniziamo con te parlando proprio di borsa, non di quello che sta succedendo oggi sui mercati. Il Dow Jones è sostanzialmente piatto, meno 0,03%, il Nasdaq cede lo 0,15%, ma andando un pochino più indietro nel tempo, ossia parlando di questi ultimi 10 anni di borsa. Con Sebastiano Barisoni avete sentito nei giorni scorsi, si è parlato di questo decennio dal punto di vista economico, è stato un decennio difficile per una serie di motivi, si consideri solamente quello che è seguito agli attentati dell'11 settembre, si consideri solamente la crisi che stiamo ancora vivendo e dalla quale non siamo ancora usciti. Mario, affrontiamo l'argomento prettamente borsistico. Come sono andate le cose a Wall Street in questo decennio? Direi che non è una domanda difficile, sono andate male. È stato un decennio di straordinari alti e bassi, un decennio caratterizzato da bolle continue. Prima abbiamo avuto la bolla di internet, che poi si è afflosciata proprio all'inizio di questo decennio, ricordiamolo, fu a cavallo tra il 99 e il 2000, proprio nel 2000 che ci fu la prima botta forte, e poi di nuovo nel 2001 le prime botte forti sulla corsa straordinaria che aveva avuto l'indice Dow Jones, direi dall'inizio dell'era Reagan, con poi un'accelerazione dopo la fine della guerra fredda con il dividendo per la pace e internet. Ecco, è stato un periodo davvero straordinario. Poi la borsa si è ripresa grazie alle misure di stimolo subito dopo l'attacco dell'11 settembre, misure di stimolo durate un po' troppo a lungo, che poi hanno creato la nuova bolla. Quindi è stato un elemento direi dominante quello delle bolle di borsa. E però mi ha incuriosito molto, anzi sto proprio preparando una cosa per il nostro inserto sul Sole 24 Ore Plus, su una bolla un po' particolare di cui si parla poco, cioè quella che io chiamo la bolla nominale, parlando di indici di borsa e parlando di borsa. E cioè insomma, adesso siamo per esempio tornati intorno a quota diciamo 10.500 per l'indice Dow Jones, che è stata una corsa straordinaria se la vediamo a partire dai minimi nel post crisi immobiliare finanziaria, quando, lo ricordiamo, il marzo scorso eravamo attorno a quota 7.000. Ecco, però quello che non si fa molto spesso analizzando gli indici di borsa è quello di fare una verifica reale rispetto al valore nominale. Il valore 10.500, i valori che noi abbiamo di riferimento dell'indice Dow Jones, sono dei valori nominali, dei valori assoluti, ma non sono dei valori che tengono conto dell'inflazione. Ecco, e questo è l'esercizio che stavo un po' cercando di fare. E se vediamo quali sono i valori di oggi rispetto ai prezzi del 99, quindi di 10 anni fa, beh, oggi il livello attuale credo che sarebbe attorno a quota 8.002, e se dovessimo essere ai livelli del 99, perché 10.500 grosso modo corrisponde ai livelli che avevamo attorno al 99, circa 10 anni fa, e quindi insomma non è rassicurante rendersi conto che dopo 10 anni siamo grosso modo agli stessi livelli a cui eravamo appunto nel 99, ma siamo ancora al di sotto, perché se dovessimo essere in termini reali e quindi in base ai prezzi del 99 sugli stessi livelli di allora, beh, il Dow Jones dovrebbe essere oggi a quota 13.460 assunto dal punto di vista nominale, quindi è un aspetto direi molto interessante questo da tenere presente, che raramente si affronta. Ci sono poi naturalmente altri confronti, se vediamo sul piano nominale la performance della borsa addirittura dal 1929 ad oggi, beh, l'aumento è di 27 volte, quindi la tesi generica è quella di dire, beh, se investendo in borsa comunque nel lungo periodo si è sempre sicuri. Ecco, da questi dati che tengono conto dell'inflazione forse il quadro andrebbe un pochettino aggiustato. Ecco, resta da però fare anche un confronto, perché ovviamente le statistiche sono interessanti, ma come sappiamo poi le statistiche sono molto relative, perché se invece qualcuno fosse entrato in borsa nel marzo, nell'aprile del 2009, beh, oggi avrebbe fatto una corsa rapidissima portando a casa guadagni del 30-40%, quindi sarebbe comunque felicissimo, ed ecco che la statistica non si applica più, non si applica dal punto di vista dell'investitore se poi la confrontiamo con gli andamenti di altri strumenti di investimento, per esempio titoli obbligazionari. Ecco, allora anche lì nel periodo medio-lungo, sempre al netto dell'inflazione, beh, la performance della borsa comunque è meglio nell'ordine della performance di titoli obbligazionari. Il che, fatti i calcoli che hai fatto, comunque non è per nulla confortante, insomma, è un tema che abbiamo affrontato parecchio nei giorni scorsi anche all'interno di Salvadanaio, e che è il tema appunto della borsa, di questi 10 anni di borsa, che torneremo ad affrontare naturalmente domani in una puntata di Focus Economia che si occuperà di questo. Tra poco torneremo con te, Mario Platero, perché vi vogliamo raccontare una storia, la storia di Lloyd Blankfein, amministratore delegato e presidente di Goldman Sachs dal 31 maggio del 2006, un uomo che sta riscuotendo un certo successo, e magari avremo anche un attimo di tempo per toccare altri temi che riguardano le banche americane salvate dallo Stato. Di tutto questo parleremo naturalmente dopo il nostro giornale radio, nel quale tra l'altro ci sono aggiornamenti importanti proprio dagli Stati Uniti. Ci ritroviamo sempre con Mario Platero subito dopo il giornale radio. Focus Economia. Le 18, 9 minuti, 10 secondi, bentornati a Focus Economia, una giornata economica che vi abbiamo ampiamente descritto, insomma, e mercati che chiudono parzialmente in negativo, insomma, cali di mezzo, intorno al mezzo punto percentuale. Vi ricordo che al momento né il Dow Jones né il Nasdaq sembrano aver reagito particolarmente alle notizie arrivate da New York di un veicolo sospetto bloccato a Times Square, cosa che insomma generalmente i mercati fanno. Insomma, la preoccupazione del terrorismo non si è ancora evidentemente instillata in maniera forte sui mercati. Diciamo, per fortuna, il Dow Jones guadagna lo 0,03%, il Nasdaq cede lo 0,05%. E veniamo dunque di nuovo con Mario Plotero, corrispondente del Sole 24 Ore da New York, a questo personaggio che è Lloyd Blankfein. Chi è Lloyd Blankfein, Mario? Beh, Lloyd Blankfein è il presidente di Goldman Sachs. Goldman Sachs è la più importante oggi banca d'affari americana, quella direi più celebrata nel bene e nel male. Nel male perché Rolling Stones, la rivista americana pop, dedicò una copertina a questa banca un anno fa e la descrisse come un vampiro, quindi non molto gratificante, e invece il Financial Times pochi giorni fa, alla vigilia di Natale, ha fatto un regalo straordinario a Goldman Sachs dicendo che invece Lloyd Blankfein è l'uomo, è l'uomo dell'anno per il 2009, e sono due estremi apparenti. Il fatto è che lo stesso giorno in cui il Financial Times ha fatto questo straordinario regalo di Natale a questa banca che ha avuto dei problemi di immagine, il paradosso è che i suoi problemi di immagine derivano dall'aver avuto successo, non dall'aver fallito, ma dall'aver avuto successo col sospetto magari di non aver giocato completamente a carte scoperte. Questo è il problema di immagine di Goldman Sachs, e proprio in quei giorni, dicevo, anzi lo stesso giorno in cui Lloyd Blankfein veniva nominato uomo dell'anno dal Financial Times, il New York Times pubblicava invece una storia di prima pagina, un articolo di prima pagina, in cui si ricostruivano i dettagli di una delle operazioni, fra virgolette, incriminate, quantomeno sul piano morale, di Goldman Sachs, operazioni che risalgono addirittura al 2007, subito prima dell'esplosione della crisi. Ecco, forse è il caso di aprire una piccola parentesi su questa dinamica e su che cosa fossero state queste operazioni. Beh, molte banche, inclusa Goldman Sachs, a un certo punto fra il 2006 e il 2007 cominciarono a preoccuparsi del mercato immobiliare, del fatto che stava crescendo troppo rapidamente, che loro stesse banche avevano in portafoglio un'esposizione molto forte da un punto di vista di mutui subprime che avevano acquistato sul mercato, e quindi cosa fanno? Decidono di impacchettare queste posizioni mutualistiche in dei pacchetti misti, questi famosi pacchetti fatti da subprime, alta A e varie altre gradazioni di mutui, in dei pacchetti che venivano poi venduti e collocati presso gli investitori. Erano i cosiddetti prodotti derivati, diciamo, su cui si costruivano degli strumenti di investimento. Ecco, fin qui tutto bene, nel senso che una banca pone il suo marchio, la sua credibilità, decide di vendere un certo pacchetto, sta poi all'investitore crederci o meno. Il problema è che nel caso particolare di Goldman Sachs, il creatore di questo fondo, tale Jonathan Egol, un giovane tra l'altro che aveva allora 37 anni, laureato a Princeton, una delle migliori università americane, un astro nascente dell'istituto, creò questo fondo che aveva anche un suo nome molto particolare, Baucus, il fondo Baucus, e a un certo punto però nell'operazione di collocamento appunto col marchio di fabbrica Goldman, con tutta la credibilità che si poteva avere da questo prodotto, la banca stessa cosa cominciò a fare? Cominciò a scommettere contro questi stessi prodotti che collocava sul mercato presso i propri clienti, e cioè cominciò a giocare, a scommettere sul fatto che il mercato immobiliare avrebbe davvero fatto peggio di quello che ci si aspettava, e quindi in qualche modo contribuiva, e così comportandosi sul mercato, a minare alla base la forza e la solidità di questi stessi pacchetti che aveva collocato presso i propri clienti. Ecco, la cosa ovviamente venne alla luce già allora e destò preoccupazioni e un po' di molte critiche nel contesto dei mercati finanziari, proprio perché non è immaginabile che una banca seria faccia un'operazione di questo genere, cioè da una parte vende al cliente lo strumento, dall'altra gli scommette contro. Goldman Sachs si giustificò dicendo che erano due dipartimenti completamente separati, si operava sul mercato e cercò in qualche modo di trovare una via d'uscita. Ecco, il New York Times invece ricostruisce in questo articolo una dinamica molto più così damaging, come si direbbe in inglese, che danneggia la banca. Del resto questo è proprio questo elemento e sembra gettare un'ombra su un personaggio comunque affascinante. Sentite qua. Perché abbiamo scelto i Beatles? Perché abbiamo trovato due espressioni parallele, una utilizzata, o meglio i Beatles, John Lennon, due espressioni parallele utilizzate, una da John Lennon e una appunto da Lloyd Blankfein. Disse John Lennon, lo ricorderete, una famosa frase del 66, ormai siamo più famosi di Gesù Cristo. Ha sostenuto Blankfein in una recente intervista di aver svolto come banchiere il lavoro di Dio. In seguito poi si è scusato per questa espressione. Certo che quella di Blankfein, una storia, Mario, che è il paradigma del sogno americano, insomma, è uno che è nato nel Bronx. Sì, sì, certo, Blankfein, come molti, direi, banchieri americani, si è fatto completamente da solo, un uomo molto simpatico, l'ho conosciuto varie volte, sorridente, insomma, è un personaggio sicuramente che ha guidato questa sua banca attraverso i marosi della crisi del 2007 con straordinaria abilità e dal punto di vista, se vuoi, più cinico del capitalismo, è riuscito contemporaneamente a distruggere grosso modo tutti i suoi avversari, perché nel momento in cui la crisi parte sono tutti più o meno sulla stessa linea e a un certo punto piano piano i grossi concorrenti cadono e non c'è dubbio che Goldman Sachs ha avuto un ruolo non secondario in questo. Di nuovo era Goldman Sachs che scommetteva contro i titoli di Lehman Brothers, ci fu una famosa telefonata da parte del presidente di Lehman Brothers, Dick Fold, proprio a Blankfein, in cui gli diceva: ma cosa stanno facendo i tuoi, non è possibile che voi andate a giocare contro di noi nel momento in cui ci troviamo in difficoltà. Ebbene, alla fine Lehman è andata sotto, Merrill Lynch, altro colosso, direi l'unica grande banca che in qualche modo teneva testa a Goldman Sachs, è sparita anche lei, Bear Stearns è sparita, sono sparite un po' tutte e Goldman è rimasta come la banca regina. C'è anche ovviamente Morgan Stanley, c'è anche JP Morgan Chase, però Goldman Sachs resta come grande vincitrice. Ecco, le ombre quali sono a fronte di questa straordinaria performance? E lo sappiamo, quando ci si trova in guerra, e di fatto con la crisi del 2007 ci siamo trovati un po' tutti in qualche modo in trincea e in guerra, quando ci si trova in guerra si fa di tutto per sopravvivere e per vincere, ma a fronte di questa vittoria le ombre restano. Perché? E sono un po' quelle, Mario, che abbiamo anche raccontato poco fa, insomma, quelle che venivano citate dai giornali americani. Beh, sì, molto brevemente, quelle, ma ce ne sono anche altre. Ce ne sono altre, sarò molto rapido, perché a un certo punto Goldman Sachs, grazie a tassi di interessi molto contenuti, riesce a investire sui mercati, a fare dei profitti straordinari e nel momento in cui l'America è in crisi, la disoccupazione cresce, annuncia di avere stanziato bonus per 11 miliardi di dollari da pagare ai suoi dipendenti. Ecco, direi che forse sembra questa banca ha peccato, diciamo così, un po' di leggerezza, sì. Non ha avuto, sì, né molto in contrasto la famosa tesi Wall Street non con Main Street si è applicata. E non è la sola probabilmente ad aver peccato di leggerezza. Grazie a Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore da New York. La linea alla viabilità, ci troviamo subito dopo, parleremo di compagnie aeree. Focus Economia. A Arrivano messaggi al 349-238-6666, in particolare riferiti a quel che abbiamo detto subito dopo la borsa. Abbiamo fatto un quadro sempre con Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore da New York, delle borse, di come sono andate le borse americane nel corso degli ultimi 10 anni. Mario Platero ha fatto un calcolo sull'andamento del Dow Jones e del Nasdaq, anche rapportato all'inflazione. Ci ricorda più di un ascoltatore che gli indici naturalmente non tengono conto dello stacco dei dividendi. Sì, lo sappiamo benissimo, era, se vogliamo, quasi un gioco aritmetico, quindi naturalmente ci sono i dividendi e quindi naturalmente i guadagni sono maggiori. Andiamo avanti e parliamo del settore aereo. Ci sono un po' di notizie che girano in queste ore. Tra l'altro è interessante quel che sta succedendo in Olanda, lo avete sentito nel nostro giornale radio, dove si decide di installare gli scanner corporali. Arriva una nuova stretta sulla sicurezza che probabilmente si aggiunge ai problemi delle compagnie aeree, che si sono vissuti anche questi sostanzialmente negli ultimi 10 anni, a partire sicuramente dall'11 settembre del 2001. Ultima compagnia ad andare in crisi è la compagnia di bandiera giapponese, ve ne abbiamo parlato in apertura di Focus Economia. Ci sono dei minimi record in borsa, meno 24% solo nella giornata di oggi. Aumentano i timori di un crack, il Giappone vara un nuovo prestito per la compagnia di bandiera. Non solo, ci sono anche i dati della IATA, ossia l'associazione che raccoglie le compagnie aeree internazionali. Buonasera a Gianni Dragoni del Sole 24 Ore. Buonasera. Allora Gianni, partirei proprio dalla questione del terrorismo, che forse è quella di più stretta attualità. L'Olanda ha annunciato oggi che darà il via libera entro 3 settimane negli aeroporti olandesi, ci saranno gli scanner corporali. Al di là degli scanner corporali, sicuramente il fallito attentato tra Amsterdam e Detroit porterà una nuova stretta sul fronte della sicurezza. Secondo te che impatto può avere sui conti delle compagnie? Pesante? Potrebbe, di solito questi episodi allontanano almeno per un po' di tempo dei passeggeri che possono scegliere di non volare, che non sono obbligati a farlo per motivi di lavoro o perché hanno già prenotato delle vacanze, quindi l'effetto non sarà positivo e ci sarà un impatto negativo, ma potrebbe essere contenuto se non seguiranno altri allarmi o altri episodi. Tra l'altro oggi la IATA, l'associazione mondiale che rappresenta più del 90% del traffico aereo per le compagnie aderenti, non ne fanno parte le compagnie low cost, ha segnalato che pur essendo ancora debole il traffico, però nel mese di novembre c'è stato un piccolo incremento rispetto al novembre del 2008, anche se questo soprattutto in Asia, in Europa e Nord America c'è ancora un segno di calo, quindi la media è un recupero, meno 3 invece in Europa e Nord America, quindi c'è una piccola ripresa anche se non ancora nelle tariffe. Sì, il traffico passeggeri è migliorato del 6,4% rispetto ai livelli più bassi toccati nella prima metà del 2009, questi dati della IATA, ma è ancora del 6% inferiore rispetto ai picchi di inizio 2008. Il direttore generale e amministratore delegato Giovanni Bisignani della IATA dice c'è ancora molto terreno da recuperare rispetto a quanto perso con la crisi, non solamente con la crisi diciamo noi, ma naturalmente con il prezzo del petrolio che è cresciuto costantemente, con tutto quello che è successo dopo l'11 settembre, insomma un po' di bastonate le compagniere se le sono prese. Qual è la via, quali sono le strategie che si stanno seguendo, Gianni, per uscire da questa condizione? Una strategia è quella di aumentare le concentrazioni, c'è ancora un eccesso di capacità offerta, cioè di eccesso di posti offerti sui mercati internazionali, aumentano le compagnie che si alleano nelle 3 grandi alleanze mondiali, sono SkyTeam, quella di cui fa parte anche la nuova Alitalia insieme a Air France e all'americana Delta, l'alleanza più vasta è quella Star di cui fa parte Lufthansa, la SAS, la Swiss in Europa o la United negli Stati Uniti, e la terza alleanza è One World guidata da British Airways e American Airlines. Le alleanze comunque tendono anche a ridurre la concorrenza, quindi se hanno degli effetti positivi per i vettori, per le imprese di trasporto aereo, non hanno degli effetti positivi per i passeggeri, perché per quanto ci siano dei controlli dell'antitrust, è chiaro che se ci sono degli accordi, delle alleanze, c'è meno concorrenza. L'alternativa a questi grandi movimenti, accompagnati anche da delle ristrutturazioni e riduzioni di personale che stanno tornando in alcune compagnie anche europee, è quella della diffusione sempre più forte delle compagnie a basse tariffe, le cosiddette low cost, e su questo poi in Europa quella leader è la Ryanair, che in questi giorni è al centro di nuove polemiche, forse anche di un'operazione di pubblicità, di comunicazione, ma credo anche di uno scontro sottobanco con la nuova Alitalia, che vede molto male la concorrenza sempre più incalzante di queste compagnie. Sì, lo ricordiamo, Ryanair è in atto uno scontro tra Ryanair e le autorità italiane, in particolare l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, accusata dalla compagnia aerea di essere troppo permissiva nei confronti dei passeggeri, autorizzati a salire a bordo mostrando patenti di guida, tesserine aziendali, anche solo una licenza di pesca, mentre per Ryanair, proprio perché hanno, dicono loro, il check-in online e tutta una serie di altri elementi, ci vuole per forza la carta d'identità o il passaporto. Ryanair ha minacciato, e finora al momento la minaccia rimane, dal 23 gennaio di interrompere tutti i suoi voli, quelli interni all'Italia. Da qui Gianni Dragoni, io voglio arrivare a una compagnia invece, Ryanair è piuttosto in salute, voglio arrivare ad una compagnia in crisi, e parliamo di Japan Airlines. Lo abbiamo detto, meno 24% la borsa di Tokyo. Il governo giapponese ha varato un nuovo prestito per la compagnia di bandiera. A noi sembra un film già visto. Secondo te dove si va a finire? Di solito questi tentativi di iniettare ossigeno in un organismo che ormai non respira più o che ha gli organi vitali pregiudicati non portano a nessun risultato, se non a quello di disperdere le risorse, anche in questo caso dei contribuenti. Ricordo l'ultimo prestito ponte all'Alitalia, alla vecchia Alitalia. Tuttavia è curioso però che il governo abbia deciso di intervenire con risorse pubbliche quando sulla Japan Airlines, nonostante le sue condizioni molto critiche dal punto di vista dei conti, si era scatenata una sorta di gara, di asta impropria internazionale delle grandi compagnie mondiali per contendersela. Da un lato American Airlines, perché abbiamo parlato prima delle alleanze, e Japan Airlines, che è la compagnia col maggior fatturato in Asia, è affiliata e alleata del gruppo One World, quindi insieme a British Airways e American Airlines. E c'è il tentativo del gruppo di SkyTeam, guidato dall'americana Delta e Alwata Air France e le altre, invece per soffiarla, sottrarla a quello schieramento e portarla nel loro. Eppure, nonostante queste proposte, che prevedono anche una ricapitalizzazione e certamente anche una ristrutturazione, il governo giapponese ha preferito, attraverso una sorta di IRI del sollevante, immettere risorse pubbliche per rivitalizzare un cadavere. Vedremo che cosa succederà, dunque vedremo se le vicende saranno veramente parallele a quelle della nostra Alitalia. Grazie intanto a Gianni Dragoni del Sole 24 Ore, grazie a Mauro Del Corno in redazione, a Filippo Aureggi in regia, grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia, buona serata, Focus Economia torna domani. Radio 24, la passione si sente.